La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. L'articolo 33 riguarda la scuola e l'insegnamento. E anche qui la Costituzione pone un principio di grande libertà, perché la Costituzione è pluralista. Riconosce con grande purezza, grande semplicità, che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Ovviamente un'affermazione del genere ha ancora più valore quando invece si veniva da anni in cui non c'era assolutamente libertà di insegnamento e libertà di scienza e di ricerca. Al di là di questa grande affermazione di apertura, la Repubblica prende un impegno importante nell'articolo 33, cioè di istituire scuole statali per tutti gli ordini e tutti i gradi, quindi di assicurare un servizio di istruzione di base per tutti i cittadini. Ovviamente anche qui siamo nell'ambito poi della eguaglianza sostanziale, perché la cultura, la formazione e l'istruzione consentono ai cittadini di crescere e partecipare alla formazione della Repubblica. Il terzo comma riguarda le scuole private. Enti e privati hanno diritto di istituire scuole senza oneri per lo Stato. Anche qui ovviamente si nasconde uno dei grandi compromessi costituzionali, perché ci fu una scissione profonda in ambito dell'Assemblea Costituente sulla facoltà di istituire istituti riconosciuti e parificati da parte dei privati. È totalmente legittimo, ma non ci devono essere oneri per lo Stato, tema che poi nello sviluppo costituzionale ha creato molte polemiche e molte difficoltà. Importante anche l'ultima parte dell'articolo, perché da un lato riconosce la piena autonomia delle università e delle istituzioni di alta cultura. Anche qui si tratta di un riconoscimento importante alla forma della libertà della scienza e dell'insegnamento, perché ciascun ente può liberamente organizzarsi. Ma deve esistere un esame di Stato. Quindi qualunque tipo di scuola, privata, parificata, pubblica, devono avere un esame di Stato e l'accesso alle professioni a sua volta ha un esame di Stato. Qui si sfiora un tema poi negli ultimi anni divenuto sempre più attuale, cioè il valore legale dei titoli, perché il Costituente impone l'esame per dare un riconoscimento legale. Ma oggi, nel mondo globalizzato, nel mondo che invece si confronta con diverse modalità e diversi titoli di istruzione dati nei differenti stati, ha ancora senso parlare di un valore legale del titolo o deve essere semplicemente il mercato a porre in concorrenza i diversi studenti? È un tema sicuramente molto attuale e su cui ci continueremo a confrontare anche nei prossimi anni.